Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Sono sempre più diffuse nelle nostre città le esperienze dei cosiddetti orti urbani o condivisi. Che cosa sono? Sono in genere appezzamenti di terreno di proprietà comunale che gli stessi comuni suddividono in piccoli appezzamenti di 30 a 40 metri quadri e poi li affidano, magari tramite bando, a persone che ne fanno richiesta. Di norma sono anziani in pensione o famiglie. Si tratta di esperienze molto interessanti che permettono il recupero di terreni a volte abbandonati o che rimangono da valorizzare, ma allo stesso tempo promuovono la socializzazione, l'uso proficuo del tempo libero e sensibilizzano sia al rispetto dell'ambiente ma anche alla conoscenza e al consumo dei prodotti di stagione. Vogliamo parlarvi oggi però di un'esperienza simile ma che nasce stavolta non dal pubblico ma dal privato, ovvero una persona, un'azienda che aveva un terreno e che tramite un'associazione ha trasformato una parte dell'area agricola in orto urbano. Stiamo parlando dell'esperienza di City & Farm a Padova in via Due Palazzi, la zona per intenderci dello stadio e delle carceri, dove convivono l'esperienza dell'azienda e quella di una quarantina di neoagricoltori. Ce ne parla il promotore Mario Frizzarin. Com'è nata l'idea di fare questa associazione City & Farm e quali sono i vostri obiettivi? L'idea nasce dal valorizzare un'area agricola della famiglia. Sono circa 11.000 metri quadri, quindi non poco, in via Due Palazzi. E finora era coltivata con una modalità estensiva. E invece l'idea era quella di dire, vediamo di realizzare un progetto che metta insieme il rispetto dell'ambiente, una coltivazione quindi di tipo biologico e che coinvolga il territorio e le persone. E quindi l'idea era quella di dire, ma come il comune promuove gli orti urbani, gestiti direttamente quindi dal comune, l'idea era quella di promuoverli attraverso un'associazione, un'azienda agricola, quindi dal privato, però con un'ottica sociale. In effetti il primo anno siamo partiti, eravamo in 12 persone, quindi non avevamo fretta di raggiungere numeri importanti, ma l'obiettivo era quello di partire con il piede giusto, coinvolgere le persone e che le persone si trovassero bene con questa esperienza, andassero d'accordo. E quindi il primo anno che siamo partiti 4 anni fa eravamo appunto una decina. E ogni anno abbiamo raddoppiato, quest'anno siamo arrivati a 40 orti ed è il quarto anno che questo progetto si sta sviluppando. Chi sono un po' le persone che coinvolgiamo in questa esperienza? Di tutto, cioè, abbiamo dei pensionati, Gino per esempio è una persona che ha 80 anni e che è lì tutte le mattine. Ed è un modo per passare il tempo e dialogare con gli altri ortolani. Poi abbiamo un carabiniere in pensione, che è più giovane, un carabiniere che ancora lavora, ma anche lì si dà da fare, soprattutto anche di aiuto agli altri ortolani. Abbiamo un insegnante, abbiamo una famiglia di pensionati e il marito ha problemi ancora non gravi di Alzheimer e quindi anche un modo per la moglie di coinvolgere il marito su un'attività all'aperto. E tra l'altro questa persona ha lavorato nei campi e quindi è un modo proprio per uscire e la moglie dice sempre che è una medicina importante per suo marito. Questo del cercare spazi dove poter coltivare è un'esigenza, soprattutto per chi vive in città, molto diffusa oggi. Appunto tu hai citato l'esperienza degli orti urbani, però ci sono anche probabilmente delle persone che hanno delle proprietà che non vengono utilizzate e questa, che magari non vogliono affittare per, non so, ad altri, non vogliono costruire, eccetera, sia in città sia fuori, e quindi questo tipo di proposta potrebbe essere interessante anche per altri, per questo anche vi abbiamo un po' contattato. Sì, qui l'idea è quella dell'agricoltura urbana. Allora, sempre di più l'agricoltura entra nella città, ma con una logica vecchia, cioè di coltivazione estensiva, con tutto quello che ne segue di non coinvolgimento delle persone che vivono sul territorio, una modalità di produzione non sempre ecologicamente compatibile, e mentre si tratta un po' di cogliere l'opportunità della vicinanza tra la città e i cittadini con queste aree verdi all'interno della città. Qui con l'Università di Padova, la Facoltà di Agraria, stiamo pensando e cercando anche di cogliere alcune opportunità di finanziamento con il PSR per riflettere su questo, su questa problematica che diventa un'opportunità per le aziende agricole. E cioè, da una parte, cogliere appunto la vicinanza con la città e ti permette di costruire una relazione con il consumatore. Dall'altra parte, non solo produrre il modo tradizionale, magari con ortaggi, ma offrire anche servizi che sono quelli di trovarsi, fare dei momenti di formazione, fare dei percorsi per conoscere e vivere l'ambiente agricolo, magari cercando di recuperare anche piante e tipologie culturali legate alla specificità del territorio. Ecco, quindi voi fate proprio attività di vera associazione, non è solamente attività agricola. C'è la dimensione associativa, ma l'idea su cui stiamo anche ragionando è che comunque ci deve essere una sostenibilità economica. Quindi le due cose non sono separate, ma devono restare assieme. Sono tre gli elementi su cui si sta ragionando. Il primo è che la gestione deve essere fatta da un'azienda agricola, quindi diventa anche un'opportunità di lavoro, in particolare per i giovani che sono aperti anche a questa nuova modalità di gestire le aziende agricole. E quindi la dimensione economica, la sostenibilità economica. La sostenibilità ambientale, il fatto di essere vicino alla città, i consumatori ti chiedono di rispettare l'ambiente, sono sensibili di prodotti di qualità. E il terzo punto è proprio l'apertura al territorio, cioè la tua azienda non è che entri solo tu e i consumatori li incontri nel punto vendita, ma i consumatori entrano nell'azienda, coltivano il suo orto, vanno per esempio a raccogliere i prodotti che tu coltivi, e quindi c'è una relazione forte tra la dimensione aziendale, la dimensione sociale e la dimensione ambientale. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In quale parte del corpo ci potremmo incontrare? Senza andare lontano per poterci sfiorare. Ti hanno usato le mani e ho sentito che mi ami. Ti ho baciato sugli occhi ed ora mi riconosci. Come quando avevo voglia di incontrarti anche per sbaglio, per le strade di un paese che neanche conoscevo. Mi perdevo ed ero certo che ogni volta, tanto poi, ti ritrovavo. Come quella notte in cui mi hai detto voglio andare via, ho sbattuto questa porta ed ora basta e così sia. Un istante dopo ti eri perso e per le strade già io ti cercavo. C'è posto in cui può smettere questo nostro folle amore. In quale parte del mondo ci potremmo lasciare per andare lontano senza mai più tornare? Ti ho lasciato le mani per scordarmi il domani. Già mi mancavi, come quando avevo voglia posto in cui può smettere questo nostro pazzo amore. Non c'è posto poi per l'ombra dove batta forte il sole. Siamo solo due satelliti che si crederanno liberi. Su quest'orbita si gira senza mai uscirne fuori. Questo nostro folle amore. Non c'è posto poi per l'ombra dove batte forte il sole. Siamo solo due satelliti che si crederanno liberi. Su quest'orbita si gira senza mai uscirne fuori. Fuori. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Mario Frizzarin e stiamo parlando dell'esperienza dell'associazione City and Farm e dei suoi orti urbani. Mario, che cosa coltivano, che cosa preferiscono coltivare le persone che vengono da voi? Coltivano un po' di tutto. La differenza è che chi è bravo e chi è un po' meno bravo. E le persone che sono un po' più brave aiutano gli altri ortolani per coltivare i loro prodotti. Le produzioni sono di vario tipo, dai pomodori, le zucchine, le melanzane, i peperoni. Poi, siccome tra gli ortolani la provenienza è diversa, abbiamo persone che, abbiamo tre ortolani dalla Sardegna, abbiamo quelli che vengono dalla Puglia, dalla Basilicata, e queste persone in qualche modo cercano di coltivare anche prodotti che sono legati alla loro terra. E qui è bello appunto conoscere queste colture e anche condividere con gli altri. Una cosa bella, per esempio, è che c'era uno appassionato di girasoli e girasoli giganti, e negli ultimi due anni abbiamo cercato di fare dei vialetti e di coltivare questi girasoli negli spazi liberi dell'orto. E poi vabbè, insomma, le produzioni normali, quindi quello che ho detto prima. Poi sono arrivate anche le api. Sì, e come azienda agricola abbiamo cercato di introdurre anche qualche animale. E c'è mia figlia che è un po' appassionata di questo ambito, quindi abbiamo acquistato delle arnie, adesso ci sono 5 arnie operative. In progetto abbiamo anche l'idea di mettere delle galline per la produzione di uova e dei polli per allevarli in maniera biologica sul terreno e poi metterle a disposizione per chi è interessato agli ortolani e ai membri dell'associazione. Per avere informazioni sul vostro progetto, sia che sia una persona che magari cerca un pezzettino qui in zona di Padova, un pezzettino da coltivare, sia magari qualche proprietario che ha dei terreni e volesse un po' approfondire la vostra esperienza, dove può trovare delle informazioni? Allora, come associazione abbiamo un sito internet, cityandfarm.it, e come azienda agricola abbiamo un sito frizzarin.net. Grazie. Andiamo a chiudere ora la trasmissione con un paio di appuntamenti. Capitali verdi europee, esperienze a confronto. È questo il tema di un ciclo di convegni organizzati dalla Fondazione Barbara Capocchin e dall'Ordine degli Architetti di Padova. L'obiettivo è offrire, attraverso il confronto tra progetti virtuosi e innovativi di rigenerazione urbana sostenibile, esempi di rinnovamento del governo del territorio, coerenti con le nuove esigenze di città vitali, sicure, sostenibili e sane. Il primo incontro si tiene venerdì 10 giugno nell'Aula Magna dell'Università di Padova. Verranno in quell'occasione presentati al mattino i risultati del concorso Padova Soft City, un master plan per la città, e nel pomeriggio, come caso di studio di città green, l'esperienza di rigenerazione urbana sostenibile di Nantes in Francia. Passiamo a parlare di vino. Anticipiamo già che il tradizionale primo appuntamento del trittico vitivinicolo Veneto, promosso dalla Regione, da Veneto Agricoltura, dall'Università di Padova e dal CREAVIT, si terrà a Conegliano il 22 giugno. In quell'occasione saranno diffuse le prime anticipazioni e le previsioni per la vendemmia del 2016. Sempre a Conegliano, al campus enologico, dal 30 giugno al 3 luglio si terrà uno stage vitivinicolo proposto nell'ambito di Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016. Lo stage è rivolto non solo a viticoltori, ma anche a studenti in enologia e agraria, enologi, sommelier e agli appassionati di vino. Prevede lezioni in aula su temi quali la biodiversità, il controllo delle avversità della vita e i cambiamenti climatici, ma prevede anche degustazioni, tour guidati in azienda e visite ad alcuni siti di rinomanza artistica, storica e culturale del territorio. I costi sono contenuti, 200 euro con alloggio, 100 euro per chi non ha bisogno di alloggio. La scadenza delle iscrizioni è il 15 giugno, informazioni sul sito www.conegliano-valdobbiadene.it nella sezione news. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.